Buongiorno, bentornati su Radio Wombat, bentornate su Radio Wombat, state per ascoltare la settimanale rassegna della stampa, selezionata e curata per voi dalla fantastica redazione dei Wombati. Abbiamo qui, io, Bricco Baldo, ho qui accanto a me una voce già sentita ai nostri microfoni, è Jay, ma... Ciao Jay. Ciao. Buongiorno. Grazie. Abbiamo qui anche un ospite speciale che però vi presenteremo, si presenterà intanto. Ciao, ciao a tutti. Sono Mario. Che poi sentirete in modo più approfondito nelle prossime puntate. Abbiamo in programma veramente tante cose da fare insieme. Rassegna stampa che, come ben sapete, quando è curata dal gruppo Bricobaldo & Co. si orienta tendenzialmente sulla questione migratoria, e così è anche oggi. Andremo tendenzialmente a analizzare, a leggere e a commentare le notizie che arrivano dal mondo delle frontiere, come per come è e senza frontiere per come noi lo vorremmo. Partiamo da un caso che abbiamo già seguito nelle varie fasi, nello sviluppo del processo a Milano contro la Eni e la Shell per l'assegnazione della piattaforma offshore OPL 245. È una notizia non freschissima, ve ne saranno di più fresche in futuro, però Recommon, erano la fine di giugno, ci ricorda che il processo sta andando avanti. Siamo al terzo episodio della saga, se così la vogliamo chiamare. Recommon dice così, eppur si muove. La celebre frase di presunta fattura galileiana fotografa alla perfezione lo stato attuale del processo milanese per il caso OPL 245, la presunta tangente pagata dai manager di Eni e Shell per aggiudicarsi un ricco giacimento offshore in Nigeria. Il presidente del collegio giudicante si è espresso, si chiama Marco Tremolada, e ha ammesso con decreto la citazione di responsabilità civile avanzata all'Eni e alla Shell dall'avvocato Lucio Lucia, l'ennesimo e questa volta definitivo legale nominato dal governo di Abuja. La Nigeria presenta il conto, di fatto, perché ci sono il fatto accaduto è che 1,1 miliardi di dollari che sono stati pagati dalla Eni per appunto la OPL 245 sono solo transitati da un conto del governo nigeriano, poi si sono dispersi in mille rivoli diretti a politici e faccendieri nigeriani. Avevamo già detto questa cosa, gli scenari che si aprono all'orizzonte sono diversi e sono molteplici, non ultima una possibile soluzione transattiva. La difesa naturalmente non alza bandiera bianca molto facilmente, e di fatto dai banchi della difesa nell'ultima udienza si è levata una litania di contestazioni sulla genericità degli statuti delle ONG presenti, che a citazione di chi ha scritto l'articolo sono gli inglesi Global Witness, Corner House e la nigeriana HEDA Resource Center, che secondo loro non si occupano realmente di corruzione. Tutto questo, dice Recommon, non è altro che il gioco delle parti, vale anche quando gli stessi avvocati provano a buttare fuori dal processo la stessa Nigeria, adducendo motivazioni formali e sostanziali, tanto che alla fine la vera vittima sembra il principio della concorrenza internazionale e non uno Stato. Tutto questo sta andando avanti, se ne riparlerà, se ne è parlato il 20 di luglio, va bene, quindi praticamente tre giorni fa, e per il quarto episodio, che probabilmente finalmente ci dirà se saranno o meno accettate le parti civili e quindi come si svolgeranno le varie questioni preliminari. Purtroppo oggi voi ascoltatori che state ascoltando la rassegna, l'ascoltate di lunedì o almeno dalla settimana dal 23 in poi. Noi l'abbiamo registrata con un paio di giorni di anticipo e quindi non siamo in grado di darvi notizie relative a questa ultima udienza del caso OPL 245, ma non mancheremo di farlo in seguito. E questo è l'inizio della nostra rassegna. Si parte dalle sponde africane. Si parte dalle sponde africane per poi andare via via verso il Mediterraneo. Torniamo ai microfoni del Wombat, ecco a voi la suave voce DJ. Sì, allora passiamo a Israele, dove da pochi giorni, insomma, l'apartheid e la colonizzazione della Palestina sono legge. Quindi noi prendiamo la notizia dal sito di Radio Onda d'Urto e alla fine della rassegna stampa approfondiamo l'argomento con un'intervista audio che mandiamo alla fine per chi vuole ascoltare un po' di più su questa questione. E appunto cosa succede? Che il Parlamento israeliano ha approvato una legge che definisce ufficialmente Israele come stato-nazione del popolo ebraico, quindi su base etnica. Fra le clausole dichiara che la capitale è Gerusalemme, riconosce la lingua, il calendario e le festività ebraiche come quelle uniche ufficiali dello Stato e di fatto retrocede la lingua araba a lingua speciale. Altra norma che prevede la legge è quella che sancisce che lo Stato vede lo sviluppo dell'insediamento ebraico come valore nazionale. E quindi agirà di conseguenza per incoraggiare e promuovere il suo consolidamento. E quindi questo, insomma, chiaramente ci saranno un sacco di conseguenze perché nel territorio di Israele vivono milioni di palestinesi, di etnia araba, e quindi, boh, insomma. E quindi la situazione non è certo nuova perché siamo arrivati qui passando da tutta una serie di misure di repressive e di intimidazione nei confronti del popolo palestinese, però la direzione era chiara, si intuiva che si sarebbe insomma, arrivati a un apartheid, però è anche vero che quando le notizie diventano ufficiali o le notizie diventano legge, l'effetto è ben maggiore sia sui diretti interessati che su noi, persone che ci interessiamo delle questioni insomma, che si svolgono al di fuori dei nostri dei territori prettamente nazionali. E quindi sentiremo a fine della rassegna un approfondimento, è un'intervista tratta, fregata, va bene, presa in prestito, diciamo, ai compagni di Radio Onda d'Urto, ma ottima, e quindi noi ve la riproporremo. Intanto, prima di andare sulle sponde del Mediterraneo, andiamo in Val di Susa, Val di Susa che abbiamo seguito via via nel tempo, l'evoluzione della questione frontiera alpina perché da quest'anno, anche gli anni prima, ma in particolare da quest'anno è diventato un punto molto caldo, un punto dove dal quale cercano molti migranti, cercano di passare la frontiera tra Italia e Francia. Un tempo veniva fatto più a sud, vicino a Ventimiglia. Ma da quando la gendarmeria ha deciso di chiudere la frontiera di fatto per i migranti, essi sono costretti a tentare vie più impervie, quali ad esempio i passi alpini dell'Alta Val di Susa. Che Durante l'inverno la questione è molto complicata perché per il tempo, per la neve, per il ghiaccio e per lo scarso equipaggiamento e conoscenza del territorio delle persone che tentano di attraversare. D'estate è un pochino più semplice da questo punto di vista, ma anche molto più controllato da parte della gendarmeria che non, naturalmente non si limita alle parole, ma fatti anche piuttosto gravi, si contano anche i morti da parte delle pistole della polizia. Comunque in Val di Susa, diciamo in questo contesto di forte disagio che era aggravato anche dal fatto dell'inesistenza di un posto insomma, di ristoro dove i migranti si potessero o preparare alla partenza o rifocillare dopo l'ennesima, si può anche dire, espulsione dalla Francia, è nato un presidio Chess Jesu a Claviers sul territorio italiano, presidio autogestito. Che occupa lo spazio seminterrato di una chiesa, il quale parroco non è poi così contento. Fatto sta che è diventata una realtà molto importante per i migranti e non solo, anche per gli attivisti e i solidali della valle. È diventato un posto molto importante dove diciamo, l'attività va ben oltre a quella del supporto logistico, diciamo, c'è un grosso pensiero dietro, pensiero che si oppone alle frontiere che purtroppo possiamo vedere dai dati e dai fatti che provocano vittime costantemente. Comunque, abbiamo trovato questa notizia, è sempre Radio Onda d'Urto che ce la dà, anche questa datata perché risale a un paio di settimane fa, circa 10 giorni fa, e annuncia il rischio di sgombero per il rifugio autogestito Chess Jesu di Claviers in Alta Val di Susa. In questi mesi lo spazio è stato luogo di ristoro, riposo e scambio dove centinaia di uomini, donne e bambini hanno trovato riparo, in particolare nei periodi più freddi. E quando le nevicate impedivano qualsiasi tentativo di border crossing. Clavier è un contesto particolare, è un contesto sì di frontiera, ma anche una località sciistica, quindi che vive per buona parte dell'anno sul turismo. Non, cioè, è scontato dire che la presenza di queste persone ha disturbato i signori e quindi i signori hanno pensato bene di trovare un'alternativa a questa esperienza di autogestione, alternativa che viene. Questo non lo dice Radio Onda d'Urto, ve lo dico io, l'ho letto probabilmente anche questo, probabilmente proprio da un altro articolo di Radio Onda d'Urto. La proposta è quella di aprire un centro non a Claviers, bensì a Salicedu, che non è così vicino alla frontiera, gestito da delle associazioni molto vicine alla chiesa. Soprattutto molto vicino alla chiesa, di modo da spostare di fatto il problema in un posto, Salicedu, che di fatto non potrebbe poi non potrebbe più andare a ricoprire il ruolo e l'importanza che ricopre oggi, proprio per la sua posizione e proprio per la sua gestione. Comunque, i compagni del rifugio autogestito hanno. Scusate, ho il raffreddore. Hanno preparato un comunicato e noi ve lo leggiamo. E dice così: il rifugio autogestito Chess Jesu, il sottochiesa occupato di Claviers, è sotto sgombero. C'è una denuncia pendente sul posto da più di 2 mesi e sembra che il prefetto stia mettendo sempre più pressioni per sgomberare. Nel mentre Stato e Chiesa si stanno impegnando nel trovare un'alternativa, un luogo dei Salesiani affittato dalla Fondazione Magnetto. È gestito da due operatori della fondazione Talita Cum, una sorta di spazio di transito che aprirà a Hull, a circa 15 km dalla frontiera, un luogo che avrà 15 posti letto e una cucina per chi è di passaggio. Un'alternativa a Chess Jesu, come ci ripete il prete impegnato in questo progetto, come se un luogo gestito da una fondazione privata a 15 km dalla frontiera e che svolgerà la sola funzione di dormitorio con due operatori pagati per fare assistenza, possa essere un'alternativa a tutto quello che è Chess Jesu, al rifugio che da mesi vi passano centinaia di persone, si fermano, vivono questo spazio insieme, condividendo la loro quotidianità con i solidali, scambiandosi esperienze e consigli preziosi. A Chess Gesù si trova sempre una porta aperta dopo ogni respingimento. Qui si può condividere ogni esperienza di abuso da parte della polizia, oltre che magari costruire assieme un modo per non subirne più. A Hull il progetto dovrebbe partire per metà settembre. L'idea sembra quella di aprire un posto controllato e gestito puramente assistenziale e sgomberare così più tranquillamente il sottochiesa occupato di Clavier, che invece vive di autogestione e ha sempre rifiutato l'idea di gestire e controllare le persone di passaggio. Chiesa e Stato si stanno mettendo d'accordo per far finire questa esperienza. E lo faranno pulendosi la faccia con l'apertura di questo nuovo spazio, chiaramente inutile agli occhi di chiunque sia stato presente in frontiera nell'ultimo anno e anche di chi sia consapevole come funziona il dispositivo frontiera. Sì, quindi di fatto appunto continua così, il sottochiesa occupato dà noia allo Stato francese e alla sua polizia che ci accusa di essere dei passeurs, cioè di facilitare il passaggio dei sans-papiers in Francia. Dà fastidio a tante attività commerciali del Clavier, che è ricco comune montano, la cui economia è in buona parte basata sul turismo, che tema di perdere soldi con l'immagine di una montagna come rotta migratoria. Dà fastidio alla Chiesa, che si ritrova un sottochiesa occupato e delle bollette da pagare in guerra col comune di Clavier, a cui aveva ceduto in parte i locali e che aveva il compito di pagare luce e acqua. E dà fastidio allo Stato italiano, il cui ministro dell'Interno rivendica la chiusura delle frontiere per migranti e gioca a fare il duro con Macron. Un primo ministro che ha come assillante cavallo di battaglia la chiusura dei posti occupati e la guerra ai migranti e che si è recentemente riunito con i vari prefetti dei capoluoghi per rafforzare e rendere esecutiva la propria linea repressiva. La Fondazione Magneto, finanziatore del nuovo progetto su Hull, è stata pensata come continuazione nel tempo del suo impegno per il territorio, quale modello dell'impegno sociale dell'imprenditore moderno. La fondazione, creata e sostenuta dalla famiglia Magneto, interviene preferibilmente nei luoghi di origine del cavaliere, la Valle di Susa. I contributi sono raramente di origine privata. La fondazione Talita Cum è strettamente legata invece ad interessi economici della Chiesa. Lei stessa ha cercato e ottenuto i finanziamenti dalla fondazione privata Magneto. Non vogliamo trarre conclusioni affrettate, ma sicuramente qualche domanda ce la poniamo. Sappiamo che c'è un diverbio tra comune e vescovo sul pagamento delle bollette di Sce Gesù. Il prefetto vuole lo sgombero perché sta subendo varie pressioni, ma vorrebbe apparire politicamente accettabile. Si tratta comunque di sgomberare con la forza un sottochiesa occupato dove passano centinaia di uomini, donne e bambini, un luogo che questo inverno ha protetto moltissime persone dal freddo e cercato di evitare i morti. Questo rifugio permette di organizzarsi di fronte alla violenza sistematica e selettiva della frontiera. Lo Stato non ci vuole più tra queste montagne, forse non accetta un luogo dove non si identifica né si scheda nessuno, dove non c'è gestione né controllo, ma dove ci si auto-organizza in libertà. La Chiesa cede volentieri alle pressioni e alla fine non è scontenta di togliersi il problema di Clavier, la questione delle spese e del conflitto politico con comune e prefettura. I salesiani fino ad ora non si sono mai attivati sulla questione dei migranti in alta Val di Susa. Solo ora che si parla di soldi e di interessi economici sembrano interessarsi alla situazione. Lo ripetiamo ancora più forte e chiaro, noi da Clavier non ce ne andremo e ci teniamo a sottolineare l'utilizzo strumentale che si farà di questo sgombero. Sì, esatto, nel mentre leggevamo mi sono ricordato dove l'ho letto e ve lo dico anche perché esattamente l'ho letto sulla pagina Facebook di Chess Gesù. Hanno una pagina Facebook e me comunicano attraverso quello. Quindi chiunque di voi sia interessato a seguire in prima persona quello che succede presso Clavier può tranquillamente andare a visitare la pagina Facebook. Don't you ever worry about torniamo ai microfoni di Radio Wombat per nuove notizie. Rimaniamo in Piemonte. Rimaniamo in Piemonte, siamo esattamente a Saluzzo. Siamo esattamente a Saluzzo. Saluzzo è un paese piemontese. Un articolo che è comparso su Contropiano si intitola "Da San Ferdinando a Saluzzo non si ferma la battaglia per i diritti dei braccianti". Battaglia che non è certo iniziata, ma abbiamo visto un capitolo di questa battaglia proprio recentemente in Calabria, in seguito all'omicidio del maliano presso San Ferdinando. E ne è seguito tutta una mobilitazione, un'agitazione tendenzialmente portata avanti dai rappresentanti di USB, che fra l'altro, dove la persona Sacco, per intendersi, era attivo. Contropiano dice che lunedì 16 si è svolto a Saluzzo una partecipata assemblea dei braccianti organizzata dal coordinamento lavoratori agricoli USB. L'assemblea si è tenuta davanti alla caserma del comune, che il comune di Saluzzo ha messo a disposizione a partire da quest'anno per l'ospitalità temporanea di circa 400 lavoratori agricoli, con l'intento di superare la baraccopoli che ha tristemente caratterizzato le passate stagioni estive saluzzesi. Purtroppo, è una soluzione insufficiente sia per quanto riguarda le condizioni in cui si vive all'interno, sia per quanto appunto non è in grado di soddisfare il bisogno abitativo di tutti i lavoratori. Si considera che è uno stabile composto da grandi stanzoni che non hanno finestre, dove vi sono state montate le letti a castello. Vi sono dei portoni a grate che naturalmente fanno entrare aria fredda durante la notte, le docce che sono di acqua anche se fredde, i bagni sono chimici, i fornelli che sono situati, come appunto le docce e i bagni, in cortile. L'accesso alla caserma è naturalmente controllato tramite un badge, perché insomma è un posto veramente chic e quindi c'è bisogno di controllarlo. Altri 200 lavoratori che non stanno dentro a questo stabile per problemi di posto dormono per terra sul marciapiede antistante alla caserma. E a queste persone non viene assolutamente concesso di montare neanche una tenda né in caso di pioggia, proprio perché l'obiettivo è quello di eliminare le baraccopoli. Naturalmente un nutrito gruppo di lavoratori ha occupato una vecchia fabbrica abbandonata nelle vicinanze. Però, come possiamo immaginare, nelle vecchie fabbriche non vi è né luce né acqua e quindi le condizioni igienico-sanitarie sono molto precarie. La maggior parte di questi braccianti naturalmente non riesce ad accedere alla disoccupazione agricola perché non raggiunge il numero di giornate minime richieste a causa del lavoro in grigio e quindi hanno deciso di sfilare in corteo al quale ha partecipato anche Abubakar Sumakoro, che è il sindacalista di USB attivo nelle lotte dei braccianti in Italia. I braccianti hanno espresso con forza e determinazione la necessità di organizzare una manifestazione a Cuneo per sabato appena passato. E la manifestazione è partita dalla caserma di Saluzzo sabato mattina è andato a sfilare per le vie del corteo, ma anche di questo vi parleremo in seguito perché ancora la stampa non ne riporta notizia. Quindi questo è quanto succede. Possiamo vedere che la questione del caporalato e della precarietà estrema sia sul lavoro che anche poi abitativa di conseguenza non è una caratteristica che riguarda esclusivamente il sud Italia, anzi, ma riguarda, questo è un caso avvenuto in Piemonte, ma ve ne sono altri anche nella nostra amata Toscana. Adesso appunto in questo clima di sfruttamento e non solo, anche un po' di incitamenti al razzismo e a violenze verbali e fisiche, succedono anche cose gravi. Appunto, 2 giorni fa, 19 luglio, prendiamo la notizia da Radio Onda Rossa, una bambina di 15 mesi a Roma è stata colpita da un proiettile, diciamo, vagante, non si sa quanto diretto, insomma, alla mamma o no. Cosa succede? Appunto, mentre la bambina si trova in braccio alla madre, è stata colpita da un proiettile esploso probabilmente da una pistola o un fucile ad aria compressa, e attualmente la bambina si trova all'ospedale pediatrico Bambin Gesù in gravi condizioni e rischia una paralisi permanente. E nel frattempo, appunto, la bambina è rom e il Messaggero, come magari altri giornali, avanzano l'ipotesi che i rom si siano sparati da soli. Quindi cambiano nota abitudine dei rom, sì. Questa qua di sì. Solito si spara da, cioè, si sveglia la mattina, sì, anche ai bambini piccini di solito funziona, sì, così. A 15 mesi non so se riesci grande manca Messaggero a tenere una mela in mano. E quindi, insomma, così appunto dice Radio Onda Rossa, cambiano i protagonisti ma i copioni rimangono gli stessi. È uno dei tanti episodi che si susseguono tutti i giorni, insomma, sentiamo però. Assolutamente, anzi si può dire che ne succedono sempre di più, sempre peggio, fra l'altro sempre più aperti, sempre più sfrontati, senza alcuna paura delle conseguenze che tutto questo può, comportare. Questo era un articolo pubblicato da Radio Onda Rossa pochi giorni fa. Se andate sulla loro piattaforma, sul loro sito, potete trovare un'intervista e vari commenti sulla questione Rom, sulla questione Rom, su questa ultima questione. Poi sulla questione Rom ne possiamo parlare anche noi, visto quanto successo proprio recentemente nella nostra città. Nella nostra città che ha visto la morte di Duccio Dini, che purtroppo per sua sfortuna si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, e tutto questo ha riportato l'attenzione dei media e anche naturalmente dei politici, e hanno visto in questo una ghiotta occasione dove fare campagna e procurarsi consenso. Fatto sta che i risultati sono che Duccio è morto e nessuno lo potrà riportare in vita. I responsabili sono stati arrestati e sono attualmente in stato di fermo, ma nell'aria è rimasta una gran tensione, tant'è vero che la comunità delle piagge aveva in programma una cena proprio rom per smuovere la questione da un punto di vista culturale. Avevano in programma una cena, se non mi sbaglio, nel fine settimana fra il 21 e il 22, che però è stata annullata a causa del clima molto teso, sono quasi arrivate delle minacce, e quindi hanno deciso di non alimentare questo clima. Hanno annullato semplicemente la cena. Penso anche che abbiano fatto la scelta giusta. Sì. Poi in città i politici se ne vanno, ma noi nelle città ci abitiamo. Tra l'altro Cianardella poi ha colto la palla al balzo per far vedere anche la sua politica, la politica della ruspa, perché ho visto sto video dove lui girava al campo del Poderaccio, dove c'era un campo abitativo, e appunto contro l'illegalità e un'azione antidegrado. Assolutamente. È stata definita, ma... Anzi, io ho addirittura letto che questa figura della ruspa, naturalmente è una figura presente oramai nella politica italiana da diversi anni, però era sempre stata evocata e mai nessun politico di fatto si era fatto riprendere di dietro, davanti. Esatto. Più avanguardista Nardella che Salvini. Ancora una volta si scopre un Nardella all'avanguardia, purtroppo non nel senso che a noi piace, ma... nel senso che probabilmente piace a lui e anche ai suoi elettori, che di sicuro noi non siamo. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Una notizia bellissima, perché appunto il titolo della stampa dice: fuga in Francia sul pedalò, i migranti beffano i gendarmi. Quindi che è successo? Che è stata rubata questa imbarcazione, c'è cioè un pedalò a Ventimiglia che poi è stato ritrovato a Cap Martin, e la gendarmerie e i reparti speciali della polizia francese era da giovedì sera scorso che avevano gli occhi puntati sul confine terrestre di Ponte San Ludovico, perché c'era stata il 14 a Ventimiglia una grande manifestazione contro le frontiere. Ventimiglia città aperta. Città aperta si chiamava. E il fatto appunto è che questo gesto di questo gruppo di migranti che è riuscito a varcare il confine, a entrare in Francia, insomma, ha fatto notizia. E ci credo. Grazie a una disattenzione, grande vizio umano, e appunto non era stato riposto questo pedalò come al solito nel magazzino alla fine della giornata, e la mattina non hanno trovato sto pedalò. E quindi ai titolari dello stabilimento è arrivata a sorpresa questa telefonata da parte della capitaneria francese di Roquebrune, e sono riusciti a risalire a questa struttura balneare di Ventimiglia. E niente, appunto, Roquebrune dista circa 25 chilometri seguendo la statale da Ventimiglia, e un po' meno via mare, quindi hanno preso una scorciatoia. Ma in ogni caso, per i protagonisti, coprire quella distanza, ora noi ci ridiamo, non è stata proprio una passeggiata, direi. Non è uno scherzo. Però, insomma, tutta la stima, cioè se sapessi fare i fumetti, sì, ci farei un fumetto. Sì, allora, no, fra l'altro, no, vabbè, ora, incredibile, forse sono i primi a riuscire a passare una frontiera in pedalò, questi qua. E ora, è una notizia curiosa, è una curiosità che però, diciamo, fa anche capire quanto la situazione sia critica, nel senso che laddove la repressione è così forte, ma è anche così forte il desiderio di passarla, questa frontiera, di andare verso territori e vite migliori, che davvero si trovano tutti gli escamotage. In questo caso c'è stato un po' un allineamento astrale, la partita, la finale dei mondiali, dove la Francia ha visto, insomma, avete visto che cosa ha fatto. Quindi si può immaginare che tutta la Francia fosse con lo sguardo rivolto al televisore, come si può anche immaginare che erano distratti dalla manifestazione di Ventimiglia città aperta. Fra l'altro, manifestazione, ne abbiamo già parlato nella scorsa rassegna stampa, manifestazione che ha visto la partecipazione di veramente tante persone, grandissima contentezza da parte degli organizzatori, e tanti progetti futuri. Rimaniamo in tema Francia, e rimaniamo anche in tema mondiali per l'ultimo articolo che andiamo a citare. Attenzione, perché è una fonte veramente di spessore. Si tratta di Lercio, e si intitola così: Ventimiglia, la Francia dichiara riapriremo le frontiere, ma solo ai profughi bravissimi a calcio. Articolo di Fabio Corigliano, che dice così: Parigi, dopo le tensioni con gli immigrati a Ventimiglia nei giorni scorsi, la Francia dichiara di voler tornare sui suoi passi in merito alle politiche di accoglienza. Ammettiamo di aver commesso un grosso errore, ha dichiarato Jean-François Paracul, portavoce dell'Eliseo, e ci rendiamo perfettamente conto di quello che sarebbe potuto accadere chiudendo totalmente le frontiere. Senza il contributo di africani, asiatici e stranieri, naturalizzati in generale, la nostra nazionale di calcio potrebbe al massimo qualificarsi per il torneo interparrocchiale di Roubaix. La stragrande maggioranza degli immigrati africani che richiede asilo parla anche la nostra lingua. Sarebbe stata una cosa insensata rifiutare l'ospitalità ai futuri campioni che non hanno nemmeno bisogno dell'interprete pagato dai contribuenti. Per questo abbiamo deciso di aiutare la dogana e le forze dell'ordine di palloni con una con cui testare l'abilità dei disperati al confine. Se riusciranno a fare almeno 100 palleggi consecutivi, allora saranno accolti nella nostra evoluta democrazia. Paracule rivendica anche la grande tradizione di accoglienza della Francia. La nostra è sempre stata una nazione aperta e tollerante. Infatti nessun francese si è mai rifiutato di avere una colf o un giardiniere straniero, e questo già dai primi anni del colonialismo. Non siamo mai stati schizzinosi e cercheremo anche di aiutare i meno fortunati dei loro paesi, come in Polinesia, in Mururoa, che non so dove si trovi, dove abbiamo portato la gioia e l'allegria di una tipica festa francese e bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Non sto a leggervi tutto, diciamo che in generale ci sembrava ingiusto non sfruttare la presenza fisica e tecnica di questi energumeni di colore. Abbiamo capito che senza di loro avremmo rischiato di non qualificarci mai più a un mondiale o a un Orfeo, e per questo quindi una nazionale come la nostra non poteva naturalmente permetterselo. Questo naturalmente è tutto da leggere in chiave ironica, ma dà un po' l'idea di quello che di fatto è. La Francia è uno Stato che attraverso il colonialismo ha di fatto vissuto sulla immigrazione, nonostante che adesso ci sputi sopra, ne ha ricevuto veramente tanti, tanti, ha ricevuto veramente tanti, tanti benefici dagli arrivo della diversità, dalla presenza della diversità sul suo suolo. Questo io... Anche se queste sono fanta dichiarazioni, ma sarebbe bello averle così sincere e dirette, sì, perché in realtà sono queste fra l'altro le intenzioni. Fra l'altro, sì. Signori, prima di lasciarci, noi abbiamo finito gli articoli che volevamo raccontarvi, e vi lasciamo un attimino spazio a Johnny Cash, ma no, giusto poco, perché poi andrà un approfondimento sulla questione di israeliana, sull'ultima legge israeliana, a cura di Radio Onda d'Urto. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Approvata dal Parlamento israeliano, il Knesset, una controversa legge che definisce ufficialmente Israele come Stato-nazione del popolo ebraico. Fra le clausole di questa legge si dichiara inoltre che Gerusalemme diventa la capitale ufficiale di Israele, riconosce inoltre la lingua, il calendario e le festività ebraiche come ufficiali dello Stato e di fatto retrocede la lingua araba a speciale. Con noi per affrontare questo tema abbiamo in collegamento telefonico proprio da quelle zone Mary Calvelli, cooperante nella Striscia di Gaza. Un saluto a tutti voi. Ecco, ti chiederei innanzitutto semplicemente cosa ci dice questa legge. Ma che cosa dice questa legge? Di fatto dice la verità su quello che è sempre stato Israele. Di fatto ha sancito quello che in pratica è sempre stato sin dalla formazione dello Stato di Israele nel 48. E oggi in teoria, passando una legge del genere con uno status particolare che è quello proprio costituzionale, sapete che Israele non ha mai avuto una costituzione, diciamo questo si avvicina invece al rango costituzionale che vuole dare proprio a Israele, allo Stato di Israele, la nazione per gli ebrei, la nazione ebraica. Questo è il significato di fondo. Poi di fatto, però, come dicevo appunto, in pratica questo Stato, questa questa nazionalità che comunque non era in qualche modo compatibile con la democrazia che hanno sempre cercato di nascondere dietro la formazione di questo Stato, di fatto questa è la legge più sincera rispetto alla loro posizione. E declassano gli arabi, ma lo sono di fatto sempre stato, a serie B, gli arabi, anche quelli che vivono in Israele, che hanno sempre vissuto in Israele e non nei territori occupati da Israele, che sono la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, e declassano addirittura la lingua araba, quindi in ogni caso, se fino adesso comunque era riconosciuta come ufficiale, di fatto diventa e una lingua parlata soltanto per motivi, diciamo, di servizi in generale, per chi non capisce l'ebraico, e fa Gerusalemme la capitale, e questo anche abbiamo visto nei mesi passati, insomma era già avvenuto di fatto sulla pratica e adesso è anche proprio sulla carta. E i palestinesi, ricordo, gli arabi di Israele, in ogni caso in questi anni, in tutti questi 70 anni che comunque hanno avuto una sorta di cittadinanza israeliana, in ogni caso di serie B, nel senso che comunque nelle comunità dove vivevano non hanno mai potuto né costruire né avanzare né anche fare per esempio alcuni lavori, alcune cose particolari. Sì, è vero, ci stavano liste congiunte nella Knesset con gli arabi, di fatto però diciamo nella pratica poi ben poco hanno potuto decidere del proprio status, della propria nazione, del paese dove vivevano di fatto. Quindi in qualche modo si può dire essere una legge reale, una legge che di fatto è sempre stato così e adesso è messo nero su bianco. Adesso chiaramente ci sono stati molte controversie, come sapete sono molti anni che discutono questa legge, è stata la parte del governo, la destra del governo a volerla fortemente. E addirittura il presidente di Israele, Rivlin, è riuscito a rivedere, tra virgolette, alcuni articoli, diciamo, un po' più scabrosi, che erano quelli non accettare dentro le comunità dove tuttora vivono, no? Ci sono alcune città dove vivono israeliani e arabi israeliani insieme, e la legge inizialmente sembrava voler escludere totalmente gli arabi israeliani anche da queste comunità. Ecco, addirittura il presidente di Israele in qualche modo ha cercato di cancellare questa legge, ci sono state questa norma, questo articolo, diciamo, che stava dentro questa proposta di legge che ormai è stata approvata. E si sancisce gli insediamenti, gli insediamenti sia in terra dello Stato di Israele, ma anche nelle terre occupate da Israele, che sono la Cisgiordania e Gaza. In ogni caso gli insediamenti sono sempre stati costruiti in questi anni, sono assolutamente avanzati. E diciamo che questo oltretutto diventa un fattore ancora più forte, no? Attraverso questa legge, anzi sono proprio spinti a costruirne ancora di più di insediamenti all'interno di quelle che ancora sono i territori palestinesi, con nessun statuto particolare, non riconosciuti come sappiamo. In questo senso, quindi rimangono i territori occupati, di fatto sono i territori occupati, e gli scenari che però si presentano di fronte, davanti a questo cambiamento così forte della legge Stato-Nazione esclusivamente ebraica, chiaramente insomma sono se non immaginabili, però insomma sono sicuramente molto pericolosi. Ecco, la legge, come dicevi anche tu, che è diventata ufficiale, ma sancisce in realtà quello che sta già avvenendo da ormai dal 48, dall'occupazione dello Stato di Israele, è passata però con una maggioranza risicata all'interno del Parlamento israeliano. Ricordo, a favore del provvedimento hanno votato 62 deputati, contrari invece 55, compresi i rappresentanti dei partiti arabi. Non solo, è stata anche criticata da alcuni quotidiani mainstream di centro, non solo dalle sinistre che sono abituate ad opporsi al sionismo politico, e quindi ti chiedo, ci saranno in questo caso reazioni sul panorama politico a Israele? Beh sì, di fatto ci sono state, appunto, a parte la maggioranza, che comunque non è una maggioranza assoluta come qualcuno vorrebbe far credere, sono 62 contro i 55 partiti, oltretutto ci sono anche astenuti, anche addirittura quelli del Likud si sono astenuti, anche personaggi, diciamo, importanti, che sono stati importanti anche nel passato dello Stato di Israele, hanno criticato fortemente. E da quello che si dice, sicuramente sì, ci saranno delle ripercussioni, oltretutto dovrebbe ancora andare in Corte Suprema, se non sbaglio, qualcosa del genere, questa decisione comunque. Certo, le proteste più grandi per il momento vengono dal settore arabo-israeliano, che in ogni caso si vedono declassare di molto, insomma, la loro situazione. E vedremo che cosa succederà, appunto, nel prossimo periodo, considerando, appunto, l'instabilità che c'è anche all'interno di Israele, appunto, anche sia riguardo alle leggi, ma anche riguardo a tutta la situazione generale. Qualcuno l'ha anche definita appunto una legge razzista, razziale anche, oserei dire, perché appunto si riconosce soltanto una parte eletta, e non si riconosce più niente. Di fatto però, ripeto, questo è quello che è di fatto sempre, in pratica è sempre accaduto purtroppo dentro questi territori, dentro tutta la Palestina storica, e su questo noi dovranno fare i conti. Adesso è abbastanza chiaro, è abbastanza allo scoperto, e quindi adesso sta un po' la comunità internazionale. Vero è che Israele ha degli amici molto forti da questo punto di vista, che sul concetto di Stato-Nazione sono sicuramente molto interessati, e questo è per loro un grande esempio. Ecco, infatti, oltre a razzismo si sta parlando anche di apartheid, perché io ricordo un dato, non tutti sanno che il 20% della popolazione israeliana non è ebrea, ma appunto araba, come dicevi tu, e l'80% del resto della popolazione, un quarto, è nato realmente di Israele, anche a questo dato. Ecco, io ti ringrazio, Mary, se non hai nulla da aggiungere ti saluterei e ci lasceremmo qui. Vi ringrazio anche a voi e ci risentiamo. Va bene, grazie, a presto. Grazie. Abbiamo appena sentito ai nostri microfoni Mary Calvelli, cooperante della Striscia di Gaza, che ci ha parlato un po' di quella che è appena stata approvata dal Parlamento israeliano, cioè la controversa legge che definisce ufficialmente Israele come Stato, nazione del popolo ebraico. Prison call in ancient Uzo. You the cold maids say one prison call in ancient Uzo. All right. Maybe get the color boss dying. Chance of mine, we get a cold. Baby, sustain, yeah, Little Joe. Torniamo in onda, avete sentito i compagni di Radio Onda d'Urto riguardo alla questione palestinese. La rassegna settimanale si conclude qua. E il Wombat vi saluta. Prima vi dà qualche notizia. Naturalmente vi sarete accorti che le trasmissioni sono in pausa. Molte trasmissioni hanno fatto una pausa estiva. Saranno disponibili le varie repliche oppure contenuti speciali. per quest'estate, almeno da settembre poi ripartiremo a pieno regime e speriamo anche con tante sorprese. Vi annunciamo anche le vacanze della rassegna stampa, che in agosto vedrà uno stop, ma ne avremo ancora una, sarà lunedì prossimo, che se non erro è il 30, esattamente il 30, vi sarà una rassegna stampa molto molto speciale, per questo vi consigliamo naturalmente di non perdervela. Non perdetela. Un saluto da Jay e Bricobaldo e come sempre viva il Wombat. Ehi, hey, Concana, a dimmi le cose a scombo. Afficando io, Gina.